qua pezzi, cazzo, anche la madre è entrata, a tutti i guloni ha detto. Chi è che c'è la madre? Chi è che vuole entrare? Per io, tu sì. Per acra. Oh, ciao a tutti, correti per me che devo uscire, sentiamo dopo fra. Ciao anche a Luca, divertiteli, ciao ciao. Chi è? Ora, ora. Sono un MP3, gomo gomo ad ascoltarlo. Attenzione, Torellino, Gaba. Gaba, frate, tutto orecchie, Gaba. Senti qua, binario 10, Gaba, eh? Gaba, Gaba, ma sento che c'è anche Rita, avanti Rita, col buongiorno, Gaba. Buonasera, Torellino, buonasera, buonasera, a lavoro. Eia. Non hai fatto ponte oggi, no? Lo ponte me l'hai fatto, sì. Sei a te, te sto arrivando in zona tua, eh. Ehi, a cosa devi cercare? Roba qua? Lì a Serra di Leone. Sardine c'ha. Sardine sta vendendo otto. Sardine? Ehi. Facciamo una casa invece di prendere a pescare. No, ma sono fresche loro, non vanno bene. Ehi, e ti preoccupare tu. Vogliono puttinose per pescare, no? Ma così è. Gaffa. Prima di arrivare a me passava da questo tipo e tu non dici, no, io ho il libro a casa, mia sorella è a casa io. E trovo quella scusa che vabbè un libro, vabbè, gazzardi, che ci intrippava un bel. Più di me di assalienti di Renchivi. Una scusa non leggeva. Ho fatto la solo. No, non è parlato solo, c'è uno solo. Ma se mi fa la paura? Ti ha detto maniacavola, mi intendi? E chi è? Chi è? Lo sento. Sarebbe maniacavola, va. Chi chiama maniacavola? Sei tu. Antonio di Susso. Antonio! Arriva qua. Sta chiamando, non lo sei. Negativo, Antonio! No, se non arriva qua. Non ti sente? Aspetta che sta arrivando Santiago 9, Radio 3. Era qua, non arriva. Dov'è lui? Dove sei? Antonio! Dove sei? A sotto. Zitto hai. Ehi, aia. Vieni pure un po' di chiamare nella villella, nell'antenna, ma esci meglio. Non ti ascoltano. Cosa ha detto? Ma lei sta parlando. Oh, maniagati, sei spaventi. Ma parla il coglio. Quello che si avvicina a te è poco di coglio. Ragazzi. Oh, sarà Claudio, non lo so. Ah, Claudio, Questo è duro di ciò. Oh. Però. Hai detto che sono intelligente. Chi è intelligente? Io. Tu? E con questo? Perché gli ho detto sarà Claudio. Poco di coglio. Ah, ti metti il coglio di Bussudorra. Ma tu hai dove posso dare disastri? Ega! Claudio! Era di Tuvisio! Abita a Sassari, era di Porto Torres! Vabbè, ma se per Porto Torres era c'entra! Ah, così? Tu sei su Sinca, non puoi diventare sassarese! Io sono sassarese! Anzi, ti dice maniagola! È una villella la bicicletta! Chi è? Sera, anche a lei. Vieni fuori da me. No. Ah, così è, Falconero di sotto. Piacere, Rita da questa parte. Allora. Rita no. E mo. Via. E a Rumonti. E a Rumonti. Dal monte. Chi è? Antonio, senza. Dal monte, no. Rumonti sono pure io. Dal monte sta Luca, io no. Sul forte li sto arrivando, ditemi. Beata Terry, io sono povero, piccolo e nero. Guarda se senti a me, Antonio, grazie. Ma da questa parte il marito di Rita, avanti. Ha detto capito, sì. Chi sei? Non è da qualche anno di tratto. Sta lavorando lui. Ora. Sta viaggiando. Sorry lì. Ehi. Mica ti sta chiamando lui. Non ascolto più, no. Non ti ascoltano. Non so. Allora. Per forza. Sa, non lo senti Antonio, Falconero. Lugarie. Non lo sapevo, no. No, non lo sapevo. Ah, così. Sotto, dentro, sotto, proprio città, paese, da. Sì. Moso, anche qua, in campagna, io abito. Sì. Io sto passando. tutto fuori, tanto c'è Stefano giù. Attenzione, Torellino spacca tutto.